quante notti per strada a raccontar parole, quante notti e la vita ad aspettar l'amore, quante lune cadranno, chi le salverà, quante lune saranno dimenticate già. E poi verranno i giorni di quelli che son qua, di quelli che non torni e tornerai mai più. Tanto dorme la notte e mai ci sembra viva, tanto dorme già amore, dolcissime agonie, quante stelle cadenti dimenticate già, quante stelle perdute. Quanto visse l'amore che si giurò per sempre, quanto visse quel giorno che non si perderà, tanto disse sarai quello che non sei, tanto solo vorrei mai. E poi verranno i giorni di quelli che son qua, di quelli che non torni e tornerai mai più.